sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 13 di febbraio, 16:30 primi 54 secondi, è un venerdì 13, beh certo, chi non è scaramantico dovrebbe riflettere sul fatto che intanto alla Camera si prendono a pugni stanotte, le opposizioni minacciano di lasciare l'aula, stanotte il Presidente del Consiglio ha detto se continuate così si va a votare. Insomma, non mi pare che l'atmosfera politica alla Camera sulle riforme sia delle migliori, ma non parleremo di questo oggi, anche perché è inutile, ogni opinione lascia il tempo che trova rispetto a come le parti politiche interpretano le loro priorità. Invece oggi parliamo della stima che è stata rilasciata del PIL nell'ultimo trimestre del 2014. E ci poniamo la questione se presto o tardi Giannino riuscirà a cambiarla questa sigla This is the end, perché lo so che molti continuano a dire, però la cambieremo di fronte a dei dati e delle tendenze, per così dire, reali e non solo delle speranze. La speranza è ovvio, da anni sono che le cose non vadano come vanno, però in questi anni sono andate male. Allora telefonateci all'800-24-0024, 349-2386666 per darci i vostri sms, le vostre interpretazioni del dato che adesso succintamente vi richiamo, e cosa sperate davvero in questo 2015 di ripresa della crescita oppure no. Ecco, noi oggi, oltre a richiamare la stima preliminare del PIL, abbiamo un ospite con il quale tentare di approfondire appunto la faccenda che a tutti sta a cuore, cioè come si può concretamente, realisticamente aspettarsi e fare la politica innanzitutto, perché nel 2015, se siamo, ripeto, se siamo in presenza di un vero cambio di segno del PIL, questo cambio di segno sia più significativo che non un asfittico 0, qualche cosa. Come sono andate le cose innanzitutto? Il terzo trimestre del PIL, ci dice l'Istat, è stato a crescita zero. E uno dirà, è un grande segno di fiducia e speranza. Beh, segno di fiducia e speranza perché alcuni dicono abbiamo finalmente toccato il fondo e quindi è finita la recessione, sia pure con crescita zero, cioè è rimasto invariato rispetto al terzo trimestre del 2014. Naturalmente il realista che guarda i numeri, cioè il sottoscritto, ha l'obbligo di dirvi che è da vedere se quando dopo molti trimestri il segno negativo si arriva a zero, quello successivo al segno più e non un'altra volta il segno meno, perché se andiamo a vedere la serie dei trimestri alle nostre spalle, dal terzo trimestre del 2011, perché è da quel trimestre lì fino a oggi che abbiamo avuto segni negativi per trimestre nella variazione congiunturale, cioè sul trimestre precedente del PIL italiano, se andiamo a vedere appunto dal terzo trimestre 2011, già più volte c'è stato un trimestre a crescita zero che ha fatto dire alla politica e a molti osservatori ecco qua, è finita la recessione e adesso c'è il segno più. E invece poi è venuta la secchiata di acqua fredda. Quando è già successo? È successo per esempio nel terzo trimestre del 2013, quindi un anno fa. E peccato però che poi quando è ricominciato quando è finito il 2013, il quarto trimestre, invece di avere il segno più, il trimestre ha avuto di nuovo un segno meno. La stessa cosa avvenne all'inizio del 2014, con una crescita zero nel primo trimestre, e poi il secondo e il terzo hanno avuto di nuovo una crescita negativa. Quindi, primo, la certezza non ce l'abbiamo che il prossimo abbia un segno più. È vero, si sono accumulati dei fattori esogeni internazionali, dal prezzo del petrolio al cambio deprezzato dell'euro, che fanno sperare nella ripresa, però bisogna vedere. Quello che è certo è che il 2014 si chiude il terzo anno consecutivo con un meno 0,4%, dopo il 2012 disastroso col meno 2,3%, e un 2013 a meno 1,9%. Si chiude al meno 0,4%. Che cosa succede nel frattempo rispetto al nostro quarto trimestre a crescita zero negli altri paesi di riferimento, per così dire? La Germania, per capirci, andando al paese leader dell'euroarea, che tutti i miei colleghi autorevolissimi rispetto a me in questi mesi hanno scritto sui giornaloni: la Germania c'ha il segno meno, anche i tedeschi stanno capendo che finalmente sbagliano tutto e la crisi inizia a mordere i garretti del tiranno tedesco. Ecco, nel quarto trimestre è cresciuta dello 0,7% e c'ha un tendenziale annuale di più 1,6%, quindi tutte queste cose che avete letto sulla Germania in ginocchio non mi pare che si vedano nei risultati del terzo trimestre del 2014. Nel frattempo, in termini congiunturali, anche gli Stati Uniti nell'ultimo trimestre del 2014 fanno più 0,7, quindi crescita robusta, il Regno Unito più 0,5%, crescita robusta. Ricordo a tutti in ascolto che nell'euroarea questo risultato del PIL 2014 ci rende il penultimo paese nell'euroarea, solo Cipro ha fatto peggio di noi, che fa almeno 2,3%, e le previsioni della Commissione Europea, che sono di un più 0,5 dell'Italia nel 2015, anche lì resteremmo, se le cose vanno così, penultimi nell'euroarea, con Cipro che fa meno 0,6, però nel 2016 Cipro ci scavalcherebbe addirittura. Quindi, per ricordarci, la Commissione Europea è molto, diciamo così, stretta sulle attese di crescita reale nel 2015 italiano. Banca d'Italia, che aveva un ultimo dato di più 0,4%, lo riaggiornerà, ma due giorni fa lo stesso Ignazio Visco ha fatto capire che insomma si terranno stretti anche loro, perché un conto è valutare il potenziale, se trasferito all'economia reale, degli effetti del QE della BCE, del minor prezzo del petrolio, del deprezzamento dell'euro; altro conto è vedere che cosa succede davvero, no? Se le banche poi trasferiscono davvero all'economia reale il minor costo della liquidità e così, eccetera eccetera. Quindi diciamo che ci sono da una parte delle previsioni molto prudenti, dall'altra ne abbiamo già parlato ai Conti della Belva due sabati fa, Confindustria che aveva detto più 2,1%, e lo stesso Presidente ha dovuto correggere quel dato, e a questo punto la domanda diventa: che cosa si può fare perché, primo, come già avvenuto, come purtroppo è avvenuto già due volte negli ultimi due anni, il prossimo trimestre abbia un segno in più, ma secondo, perché nel 2015 soprattutto la crescita sia più significativa di questo 0, che molti si aspettano, pur in presenza di un quadro internazionale che dovrebbe aiutare, per così dire. Anche quanto avvenuto ieri, l'accordo di Minsk tra Russia e Ucraina, patrocinato dalla Merkel, se regge, molto complicato, forse aiuta rispetto alle sanzioni di cui abbiamo parlato due pomeriggi fa e che costano e pesano all'Italia. Allora, per parlare esattamente di questo, in attesa delle vostre opinioni su questi dati e per capire quanto siete ottimisti o meno, è con noi il capo dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Buon pomeriggio e grazie, Mariano. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, siccome Confcommercio è titolare da anni e tu come capo dell'ufficio studi di una visione, quella che dice sì, non badate solo alle esportazioni, il problema italiano è un problema di domanda interna e di consumi, certo, che sono andati col segno meno perché è caduto il reddito, è caduta l'occupazione e così via. Io in particolare con te vorrei approfondire questo tema. Realisticamente, secondo voi, facendo che cosa ci si può attendere che proprio la domanda interna, quindi il reddito, i consumi eccetera eccetera, tornino ad avere un pochino più di ottimismo, fiducia e propensione al consumo. Questo mi sembra il punto centrale, dirti la verità. Certo, certo. Allora, sulle condizioni internazionali hai già detto tutto perfettamente, e queste condizioni non c'erano né nel 2013 né nel 2014, qualche effetto dovranno avercelo. Il problema è la domanda interna. Allora, noi riteniamo che il reddito disponibile finalmente nel 2015 possa crescere. Certo, siamo come dire, ottimisti, però quell'anno non è partito col piede giusto, perché io non posso non citare il fatto che sono aumentati, è aumentata l'accisa sui tabacchi e ci si aspetta 200 milioni di reddito. Lo split payment fornisce un altro miliardo alle casse dello Stato, e quindi un trasferimento di reddito disponibile dal settore privato al settore pubblico. E poi abbiamo la vera legge di stabilità, che è quella prossima, che ha tutte le clausole di salvaguardia che potrebbero portare nel futuro prossimo a 73 miliardi, cioè tra il 2016 e il 2018, di imposte in più. Questi sono gli aspetti. Aspetta, che... questa cifra che hai appena fatto, è meglio ripeterla piano a chi ne ascolta. Sì. Sono 72,7 miliardi di imposte in più tra il 2016 e il 2018 se verranno attivate le diverse clausole di salvaguardia che ci sono nelle vecchie leggi e nell'ultima legge di stabilità. Confermata nella legge di stabilità di Renzi. Ora capite anche perché qualcuno forse vuole andare a votare in fretta, perché la prossima legge di stabilità, delle due l'una: o l'Europa dice all'Italia avete scherzato e noi ve lo consentiamo, oppure iniziano ad arrivare pacchi di decine di miliardi ogni anno per tre anni, o di maggiori aggravi d'imposta, oppure di tagli alla spesa, quindi significheranno maggiori aggravi d'imposta. Ma purtroppo sono maggiori aggravi d'imposta, perché per come sono formulate le clausole sono al contrario. Non è se non tagliate le spese aumentano le imposte, ma aumentano le imposte a meno che non tagliate le spese. Esattamente. Sembra un gioco di parole, no, però no, purtroppo. Allora, i consumi non ripartono perché ci sono queste imposte che già stanno partendo nel 2015, e poi questa spada di Damocle gigantesca per il prossimo triennio. Però, se onestamente siamo in grado, attraverso una politica fiscale che tenga fermi allo stato attuale gli obiettivi di bilancio pubblico e possa investire, per esempio, le risorse derivanti dal fatto che gli interessi sul debito nel 2015 rispetto al passato e rispetto alle vecchie leggi di stabilità saranno inferiori tra 2 e 7 miliardi, diciamo che un po' di spazi ci sono per l'aumento del reddito disponibile, per la riduzione degli sprechi nella pubblica amministrazione, che purtroppo ci sono e non sono stati adeguatamente affrontati, e quindi di restituire un po' di reddito disponibile a famiglie e imprese. Attraverso che cosa? Non attraverso semplicemente il bonus, che è una cosa ottima, ma che non ha quell'impatto, diciamo, generalizzato, ma attraverso una riduzione delle aliquote. Ora qualcuno dirà: tu sei fissato, hai una malattia, sei fissato con questa storia delle imposte. Purtroppo il discorso delle imposte non è una clausola di stile, per cui non lo dice tanto per introdurre qualche altra cosa, è un punto fondamentale, ce ne siamo accorti nel passato e ce ne stiamo accorgendo ancora adesso, tant'è che se non si procede verso un percorso di riduzione certa, sostenibile, ma generalizzata riduzione della pressione fiscale, rischiamo di perdere questa circostanza straordinariamente favorevole di impulsi esterni e non li riusciremo a valorizzare. Se li valorizziamo, secondo me, allora anche la Commissione europea dovrà rivedere al rialzo le sue stime per il 2015, perché ci sono le possibilità di crescere. I segnali che voi registrate, voi avete un indicatore vostro dell'andamento del commercio e quindi della domanda di consumo degli italiani, i segnali più recenti, diciamo l'effetto saldi all'inizio di gennaio, ecco dicembre, ma testimoniano che cosa? Che c'è un inizio di ritorno alla crescita positiva dei consumi, che proietta quale effetto il trascinamento? Allora, purtroppo qui bisogna dire che negli ultimi sette mesi, da giugno a dicembre, siamo passati dalla recessione, dalla crisi dei consumi alla stagnazione, quindi per noi la ripresa è tutta da costruire ancora. E ripeto, bisogna valorizzare questi presupposti. Gli impulsi positivi a dicembre, che hanno un qualche significato, vengono sia dal ciclo dei durevoli, soprattutto dalle auto, sia abbiamo visto un piccolo segno più sull'abbigliamento, e sembra che i saldi non stiano andando malissimo, ma sono segnali straordinariamente deboli. Certo, bisogna dire che in gennaio la fiducia delle famiglie è cresciuta, ha recuperato molto, molto bene. Quindi, come dire, tutte le tessere del puzzle ci fanno immaginare un quadro positivo. Dipende però dalla politica fiscale. A mio avviso, se non si intraprende quel percorso di cui parlavo prima, abbiamo perso l'ennesimo anno, e allora sì, si può verificare quello che dicevi tu prima, che vediamo un segno zero in termini congiunturali isolato tra tanti segni meno. Speriamo che non sia così. Quindi, in parole povere, la politica dovrebbe riflettere sul quadro che si è creato, che ha degli elementi favorevoli, sì. E dire adesso c'è bisogno di un cambio di marcia. Inutile aspettare la prossima legge di stabilità, perché esatto. Bisogna farlo adesso. Adesso bisogna farlo, perché queste condizioni non dureranno in eterno. Tra l'altro, se la domanda mondiale cresce, come è possibile, sia in termini di commercio che di PIL, le opportunità del greggio a, diciamo, $60 potrebbero svanire. Quindi, come dire, si tratta anche di una questione proprio di tempi, perché la prossima legge di stabilità è molto brutta. Dobbiamo creare le condizioni per neutralizzare quelle spade di Damocle, se no abbiamo perso l'ennesima occasione. Ecco, questo è. Io sono totalmente d'accordo con questa analisi che fa tecnicamente Mariano Bella, e vorrei che voi a casa ci rifletteste. Cioè, non è che siccome si fa la legge di stabilità una volta l'anno, allora una volta che uno l'ha votata, cioè ci pensiamo l'anno prossimo. L'economia è fatta di aspettative, condizioni che si creano e mutano nel tempo. Come avete visto, anche gli 80 euro non si sono tradotti in consumi aggiuntivi, come Renzi legittimamente forse si aspettava. Perché? Perché a fronte dell'aumento delle accise da una parte, e poi molto consistente delle imposte locali e sulla casa negli ultimi anni, gli italiani, anche quando hanno avuto l'addizionale di reddito disponibile in più, hanno detto me lo metto da parte. E questo Renzi molte volte ha detto gli italiani si stanno arricchendo solo perché sta crescendo la propensione al risparmio invece di quella al consumo. Ma gli italiani lo fanno perché hanno visto che dal 2011 al 2014, nel 2011 pagavano poco meno di 10 miliardi di imposte sul mattone, e nel 2014 vedremo, quando ci sarà il conto finale con le 8.000 aliquota diversa, la forbice sarà da 25 a 27 miliardi. Capite che gli italiani non è che sbagliano, perché hanno preso una bella sleppa nelle tasche. Idem sul risparmio: nel 2011 gli italiani sul risparmio hanno pagato un po' meno di 7 miliardi di euro di imposte, e nel 2014, a fronte di 3 anni di aumenti di tasse sul risparmio a vario titolo eccetera eccetera, ne hanno pagate quasi 14. Ecco perché, se gli dai reddito disponibile in più una volta l'anno, poi mettono da parte. Adesso bisogna approfittarne. Speriamo che il governo lo capisca. La versione di Oscar. Eccoci qui, 16:48, primi 13 secondi. Stiamo tentando di, da una parte, capire cosa vuol dire questo dato dell'ultimo trimestre 2014, certificato dall'Istat in zero, quindi potrebbe essere finita la recessione, a patto che, abbiamo visto, le previsioni di crescita sono molto trattenute sul 2015 italiano. Si faccia qualche cosa subito per sfruttare gli elementi positivi che però ci sono sul quadro internazionale. Ce lo ricorda Mariano Bella. Siccome Mariano ci deve lasciare tra un paio di minuti, prima di andare alle vostre telefonate e leggere i vostri sms, gli faccio un'ultima domanda. Per quello che riguarda le chiusure e apertura, cioè il saldo d'impresa nel settore commerciale e della distribuzione, anche lì che segnali ci sono in questi ultimi mesi? Continuano a essere negativi. Noi stimiamo di chiudere la chiusura del 2014 a meno 20.000 negozi, e questo ha molto a che fare con i dati macroeconomici sugli investimenti. Cioè, quando si riduce la capacità produttiva anche in termini di attività commerciali, questo si riflette in una riduzione del capitale installato, ed è questo forse l'elemento più brutto, col maggior punto interrogativo per il futuro, perché senza investimenti, che sono la cosa che è crollata di più negli anni della crisi, è difficile ricominciare a crescere. Noi riteniamo che nel 2015 gli investimenti dovrebbero rimanere stazionari e riprendere bene dal 2016, ma appunto tutto dipende dalla nostra capacità di enfatizzare gli impulsi positivi che vengono dall'estero e trasformarli in crescita. Allora, io Mariano ti ringrazio per i minuti che ci hai dato e grazie, ricordo a chi a casa che lo stock di investimenti tra pubblici e privati persi dall'Italia a fine del 2014 rispetto all'inizio del 2008 è nell'ordine di quasi 29 punti percentuali, quindi stiamo parlando di un disastro in termini di investimenti che mancano. La ripresa degli investimenti sarà purtroppo è lunga, capite? E la questione è quindi che ci vuole il reddito per i consumi, per la componente domanda interna. Non possiamo stare appesi solo all'export della ripresa del commercio mondiale, che pure sarà la prima molla a breve. Noi dobbiamo fare questa riflessione che stiamo facendo oggi. Cosa si può cambiare presto per i redditi e i consumi degli italiani? Iniziamo allora con le vostre telefonate. Sentiamo Marco da Milano. Prego Marco. Buonasera, sono Giannino. Io sono un commerciante e quasi 40 anni che giro l'Italia. Il problema è uno solo, oltre alla crisi mondiale, e quella c'è chiaramente, la crisi doppia italiana è solo questo, che in Italia chi spende, chi può spendere, oggi non spende per un semplice motivo, perché lo Stato, la Guardia di Finanza, Equitalia, ti chiede dove hai preso i soldi per spendere e quindi chi ha i soldi non li spende per questa paura. Questa è l'unica vera verità, perché se voi vedete da quando c'è queste restrizioni fiscali, questi problemi, cosa succede in Italia? In Italia non si spende più i soldi. Questo riguarda innanzitutto naturalmente i segmenti elevati del consumo, cioè il lusso, le cose così. Effettivamente i dati danno ragione a quello che ci dice Marco. Immagino che molti in ascolto diranno no, il problema però riguarda gli altri decidi di reddito, quelli che hanno perso lavoro. Sì, verissimo, cioè questo è indiscutibile, però noi ci siamo fatti anche del male con quello che dice il nostro ascoltatore da Milano. Sentiamo Francesco da Treviso, prego Francesco. Ciao, sono Francesco. Eccoci. Per sentire, la rovina d'Italia, oltre a quello che hai detto tu, sono i dirigenti pubblici, bloccano tutto, il loro diniego è permanente per esercitare il loro potere, gli dicono sempre di no. Posso fare degli esempi finché vuoi. Infatti passeremo l'intera giornata, ci vorrebbe un'intera trasmissione, appunto, non basterebbe. I dirigenti pubblici, licenziarli tutti in tronco. Francesco, musica per le mie orecchie, ma non ce lo daranno questa misura, credo. Carlo da Roma, prego Carlo. Buonasera Giannino. Buonasera. Allora, io sono un agente di commercio che opera da 30 anni, mi ritengo un fedele contribuente, forse fedele quanto un carabiniere, quindi praticamente sempre pagato tutto quanto, ma siamo arrivati. Quindi come punto... carabinieri i contribuenti usi a obbedir tacendo, questo. Esatto, praticamente, e del resto se si vuole dormire tranquilli, alla fine così bisogna fare. Certo. Anche se a volte si ritiene ingiustificato e ingiusto quello che si paga, ok, perfetto. E che segnali raccoglie intorno a sé? Siamo arrivati al punto di non ritorno. La situazione è veramente drammatica. Io lavoro su una città come Roma, quindi insomma stiamo parlando della capitale, e la situazione è veramente drammatica dal punto di vista delle attività commerciali e dal punto di vista delle strutture pubbliche. È una città completamente immobile, dove praticamente ormai siamo a livello di un cantiere, un lavoro permanente, e non si vede la fine di nessun lavoro in corso che c'è, né metropolitane, nulla di nulla, e quindi è su tutti i fronti che la situazione allora, è veramente drammatica. Carlo, io sono d'accordo, perché una delle componenti della fiducia, la fiducia che anche di fronte a questa livelli di reddito disponibile diminuito può aumentare la propensione al consumo, è quella di segni tangibili intorno a sé, anche nell'ambiente pubblico, che c'è un senso di svolta, cioè che c'è il senso, la voglia, la fiducia di fare meglio, fare prima, fare tutti insieme e così via. Ecco, Carlo ci dice, si vede questo nel mondo pubblico? Ognuno dia la risposta, perché io condivido quella di Carlo. Giuseppe da Belluno, come la pensa Giuseppe? Allora Giannino, io la penso, se lei ha ascoltato gli ultimi quattro radioascoltatori e poi sente cosa dice il governo, pensa qui c'è qualcosa che non torna, direi. Perché il mondo reale dice una cosa e loro ne parlano di un'altra. Direi. Ecco, allora io vorrei fare un passo indietro, riforme, io sento parlare di riforme, è arrivato Monti, ha fatto una legge dei 1.000 euro, tornando al discorso di Marco, che gli do pienamente ragione, ha fatto delle riforme che hanno distrutto il commercio, poi è arrivato Letta, ha fatto delle altre riforme che hanno peggiorato la situazione, è arrivato Renzi, ha fatto delle altre riforme come adesso quella di pagamenti del pubblico impiego alle imprese, che è una cosa assurda, ripeto, assurda. Lo split payment, sì, che drena risorse di liquidità, come avviene con il reverse charge nella GDO, esattamente. Lì si capisce quanto disperato è il governo per il bisogno per incassare. Di soldi. Sì. Vuole scaricare sulle imprese, vuole che le imprese che lavorano solo con il pubblico vadano a debito di IVA per non anticipare lui l'IVA. Esattamente. Quindi qui siamo proprio la disfatta di Caporetto. Giuseppe, esattamente questa la marcia che va invertita. Sentiamo ancora rapidamente Gianfranco da Padova. Prego, Gianfranco. Salve. Dottore. Eccoci. Secondo me basta muovere una foglia. E quale toccherebbe? Se il governo ha messo che abbiamo un governo. Se il governo, no, cosa deve fare? Dice stasera, domani è San Valentino, sì, domani, dottore. Sì. Lo so, è questo. Dice il governo, tutti coloro che domani spenderanno un euro. Sì. Avranno uno sconto sull'IVA. Bravo Gianfranco, questa è la fine della trasmissione che volevo. Questo c'è bisogno che facciano adesso, subito. Non lo faranno. Continuate con Radio 24 e soprattutto domani dalle 10 alle 12, 2 ore coi Conti della Belva. Oh.